ma non si era spaventato, né era stato sopraffatto dall'orrore per i suoi crimini. Gli individui come lui erano totalmente incapaci di provare senso di colpa, rimorso, ansia o paura. Quindi lui è completamente consapevole di questa cosa e la usa. Sì, queste sono caratteristiche degli psicopatici a cui bisogna aggiungere la totale mancanza di empatia rispetto agli altri, la mancanza assoluta di rimorso. Non provo nemmeno stress, ansia, ma hanno una caratteristica straordinaria, nel senso che sono i migliori manipolatori sulla faccia della terra. E quindi lui sfrutta questa capacità manipolativa e questo gli permette appunto di avere delle relazioni sociali che lui ha studiato. Lui addirittura si è inventato la professione di musicologo, quando gli psicopatici non capiscono la musica, perché loro non sono suoni, non esatto. Hanno empatia, non si emozionano, esattamente. Quindi si è costruito praticamente una copertura perfetta. Ma Massimo Carlotto non si poteva accontentare di un semplice serial killer feticista delle borse e ha creato un intreccio veramente complesso di cui possiamo dire poco, altrimenti sveliamo un po' tutta la trama, facciamo spoiler. Però diciamo che subito si capisce dall'inizio, lui commette un errore a sua insaputa, cioè uccide a Venezia la donna sbagliata, perché questa donna fa parte, diciamo, di un'organizzazione segreta, possiamo definirla così? Sì, sì, è un'organizzazione segreta che dà la caccia ad altre organizzazioni segrete. Io ho costruito questo intreccio perché mi permetteva di mettere a confronto figure diverse di psicopatici. C'è lo psicopatico come Albe Cartagena che lo fa in maniera illegale, no? Uccide in maniera. Poi ci sono quelli che uccidono in maniera legale perché appartengono ai servizi segreti e finiscono la loro esistenza con una pensione. Ecco, però ci metti anche una spy story e il concetto della manipolazione rientra tantissimo in questo romanzo, perché questo si può anche accennare: Abel Cartagena, ossia il turista, viene poi ingaggiato, diciamo, da questo gruppo segreto, quindi viene manipolato per essere trasformato in una sorta di killer su commissione. Quindi il manipolatore viene manipolato a sua volta. Eh sì, d'altronde siamo a Venezia, che è la città per eccellenza della manipolazione, del tradimento, dell'intrigo. Proprio la storia ci insegna che questi personaggi, gli psicopatici criminali, vengono sempre usati da qualcuno. Per esempio la guerra in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, sono stati usati per la pulizia etnica, la mafia li ha usati negli Stati Uniti come killer. Quindi quando un personaggio come questo viene individuato, qualcuno ne capisce la potenzialità e lo usa. E quindi c'è questo intreccio dove si racconta un aspetto anche dei servizi segreti che ogni tanto vanno molto al di là dei loro compiti e si inventano delle nuove trame. Ecco, ad indagare, diciamo, a cercare le tracce di questo turista, c'è un ex commissario della polizia, Pietro Sambo. Lui era stato espulso perché, insomma, aveva pagato una tangente, però aveva incassato, scusate, una tangente, ma era stata la prima e unica volta. Poi dal libro si capisce che, insomma, non era realmente così colpevole come potrebbe sembrare. Insomma, non era un corrotto, Pietro Sambo. E però è costretto ad indagare in modo parallelo anche lui. Lui lo fa soprattutto perché vuole riconquistare la sua credibilità. Sì. A me piacciono questi personaggi stropicciati dalla vita che... E qui mi ha ricordato un po' l'alligatore, eh? Anche se ha molte... Sì, lo so che stai facendo questa faccia, però l'alligatore è diverso perché ha tutte insomma, la sua vita strana, eccetera. Lui apparentemente invece, Pietro Sambo, aveva una vita normale, però è un uomo che comunque crede in delle cose determinate. Sì, ha dei valori molto precisi. No, non solo crede nello Stato, nonostante sia stato espulso dal corpo per una tangente, è proprio uno che crede in valori, insomma, e vorrebbe a tutti i costi tornare a fare il poliziotto. E quindi vede in questa possibilità, nella possibilità di catturare il turista, una sorta di riscatto. È un personaggio che a me piace molto perché è un personaggio conflittuale, nel senso che questa, nonostante stia lavorando in una indagine parallela, lui cerca di rimanere fedele allo Stato fino in fondo. E questa è una contraddizione molto evidente. Questo è vero. Sai perché mi ha ricordato l'alligatore? Perché l'alligatore è appunto l'investigatore senza licenza, diciamo così, e anche lui si trova a dover fare il suo lavoro in maniera trasversale, anche se effettivamente hanno due modi di pensare molto diversi. Sì, con totalmente Ecco diversi. perché il tuo Anche, sguardo. no, no, anche perché frequentano ambienti diversi, però insomma, non so, non glielo dirò questo all'alligatore perché so che si E offende. invece con Giorgio Pellegrini c'è qualche affinità? No, beh, con Sambo no, No, assolutamente. con Anche Sa, perdonami, no, Giorgio il turista, Pellegrini. pensavo al turista, in questo momento mi sono distratta, pensavo al turista e allora ho pensato a Giorgio Pellegrini. Anche Giorgio Pellegrini è uno È psicopatico. appunto per questo. Anzi, l'analisi che ha fatto Corrado De Rosa, psichiatra e criminologo, ha detto che è un narcisista all'ennesima potenza, oltre a essere uno psicopatico. E questo delinea un po' di più il carattere di Pellegrini. Però Pellegrini assomiglia tantissimo a molti criminali che oggi vediamo in azione. È una sorta di tipologia, ecco, di personaggio. Ecco, all'inizio del romanzo si vede appunto il turista che entra in azione, che segue questa donna, la uccide. Le donne però in questo romanzo non sono solo vittime, perché a un certo punto, diciamo, in questa organizzazione segreta c'è una psicopatica, tanto quanto il turista, si mettono insieme per combinarne, diciamo così, delle belle in senso lato. E quindi i personaggi femminili sono sia buoni che cattivi. Lo so che per te il confine nel romanzo è molto labile fra bene e male. Sì, però ci sono delle donne che credono solo nel male, alcune che combinano dei guai credendo solo nel bene. Insomma, quindi c'è una situazione piuttosto complessa, ma ci sono anche dei personaggi molto positivi da questo punto di vista, che però hanno una visione dello Stato e dell'agire dei servizi segreti molto pratico, anzi fin troppo pratico, insomma. L'altra cosa che mi ha stupito di questo romanzo, a un certo punto si dà la caccia appunto al turista, a questo serial killer, a Venezia, no? Però c'è tutta una rete di bed and breakfast non dichiarati, insomma, quindi è difficile trovare una persona. Venezia mi ha dato sempre l'idea di una città tranquilla dal punto di vista della criminalità. Invece poi parlando con i veneziani, con persone che abitano a Venezia, sono di Venezia, mi hanno parlato di una città profondamente corrotta. È la stessa idea che ti sei fatto tu? Beh, sì, il più grande scandalo degli ultimi 20 anni, lo scandalo Mose, è avvenuto a Venezia. Venezia è una città con un grandissimo profilo di corruzione, di malaffare a tutti i livelli. Anche questa storia dei B&B, degli appartamenti affittati in nero, ha permesso per anni a latitanti di stare a Venezia. Cioè, voglio dire, è una città complessa da questo punto di vista. E ha una storia criminale, a partire dalla notte dei tempi, notevole spessore. È stata sempre per eccellenza anticamente la città delle spie, degli intrighi. La Repubblica di Venezia ha sempre tradito in maniera sistematica i propri alleati. È una Ecco, diciamo Venezia. forse non c'è la criminalità spicciola, ecco, magari non c'è lo scippo, la macchina non te la possono rubare perché non ci sono le macchine, però magari appunto è una città che si presta bene ai misteri e ai segreti. Perché gira tutti i luoghi dove ci sono una montagna di soldi. Portano a questo, e questo è effettivamente Venezia è una città dove i soldi girano e quindi attira ovviamente l'interesse dei criminali. Con Massimo Carlotto ci fermiamo per un minuto, poi riprenderemo a parlare del suo romanzo Il turista, pubblicato da Rizzoli. Il cacciatore di libri. E riprendiamo a parlare del romanzo Il turista, del thriller Il turista, scritto da Massimo Carlotto e pubblicato da Rizzoli. Il turista, ora non voglio fare spoiler, quindi se dovete ancora leggere, no, non faccio spoiler, però comunque se tappatevi le orecchie per un minuto perché de devo dire una cosa, diventerà un personaggio seriale? Il Il turista? turista. Sì, Ok. seriale. Qua. Ieri abbiamo deciso del secondo romanzo, poi. Esatto, quindi vuol dire che non muore alla fine di questo romanzo. In questo beh, senso era lo no, spoiler, no, ma perché se diventa un personaggio seriale lo io possiamo però l'ho dire. sempre detto, io l'ho sempre detto, io i personaggi seriali oppure i personaggi non li ammazzo mai nei romanzi perché dopo sarei costretto a farli risuscitare, che è Tipo un po'. Dallas, Bobby Esatta, Huey, esattamente. E quelle cose lì quindi della nostra no, non epoca. ci penso proprio. A proposito delle borse, no? E tu in questo romanzo, visto che il turista ha questo feticismo nei confronti delle borse, appunto nota le donne a seconda delle borse, però devono essere non la forma e il colore, ma di una determinata marca, un determinato tipo, insomma, fai diversi riferimenti alla moda, all'alta moda, insomma, degli accessori. Hai dovuto studiare? Ho studiato moltissimo, ho fatto impazzire più di un negoziante. Il primo sono entrato e ho detto: ma come si fa a riconoscere se una borsa è bella? E E soprattutto ho cominciato a parlare dell'interno, delle tasche. E questi mi guardavano come se fossi pazza, dicendo: ma se deve regalare una borsa? No, io non vorrei, cioè mi piacerebbe regalarla, ecco, però in realtà voglio sapere altro. E quindi sono entrato in questo mondo, sono finito poi nei laboratori, ho capito proprio le pelli, questo e quell'altro, e alla fine ho deciso che poteva essere un bel feticcio. Quindi sei consapevole che una borsa, insomma, particolarmente figa può arrivare a costare 3-4 mila euro anche? Anche molto di più. Ah, ci sono borse che devi prenotare un anno e mezzo prima. La famosa Birkin. Bisogna se non sei in lista, ma guarda, tanto la cosa, come dire, non mi riguarda. Mi ricorda invece un ricordo che ho con te di qualche anno fa, insomma, eravamo ad un festival letterario e a un certo punto io avevo in mano un libro di una persona del mondo della moda, e in questo libro si davano i consigli alle donne su cosa tenere nell'armadio, cosa non deve mai mancare, il tubino nero, questo quest'altro. Siccome tu eri molto interessato a quel libro, io decisi di regalartelo. Allora, vorrei sapere se tu hai preso spunto da quel libro per qualcosa. Beh, ti è servito a niente? Innanzitutto no? Vorrei ricordarti che in quell'occasione ho anche fatto tutta un'indagine, grazie a te, anche sulla qualità dei cosmetici. Sì, e quello l'hai messo però nel ciclo delle vendicatrici Eva, sì. Che aveva però la quel profumeria. Libro non l'ho più abbandonato, l'ho letto. È una pietra miliare. È una pietra miliare, e lì ho capito tutta una serie di cose, per cui anche l'importanza di un feticcio all'interno di un discorso con un serial killer, per cui io ho studiato. Insomma. Mi sento fiera in questo senso. Grazie Massimo Carlotto, grazie per i libri che ci regala, perché sono veramente sempre una grande emozione. Io lo dico quando devo saltare delle pagine perché mi impressionano tanto, e lo dico invece, come in questo caso, quando le ho lette tutte, perché non ci sono scene troppo pulp, quindi si possono leggere. E la cosa bella è soprattutto l'indagine psicologica che fai dei personaggi, sia del turista ma anche dell'ex commissario che a suo modo vuole riscattarsi cercando di risolvere, diciamo, un caso. Grazie Massimo Carlotto. Grazie in libreria con Il Turista, pubblicato da Rizzoli. E ora parliamo della nuova fiera del libro che nascerà nel 2017 a Milano e che è stata presentata ufficialmente la scorsa settimana. Dopo un bel periodo, diciamo, di polemiche con Torino, che lo ricordiamo nel 2017 arriverà la 30ª edizione del suo Salone del Libro, dopo anche un tentativo in extremis del ministro Franceschini di creare un evento coordinato fra Milano e Torino, l'AIE, l'Associazione degli Editori, ha deciso, diciamo, di andare per la sua strada e di far nascere appunto a Milano una fiera. Si chiamerà Tempo di Libri e si svolgerà da mercoledì 19 a domenica 23 aprile del 2017 alla Fiera di Rho. L'organizzazione fa capo alla Fabbrica del Libro, che è una società creata fra Fiera Milano e l'AIE, appunto l'Associazione Editori, e Fabbrica del Libro, che è presieduta da Renata Gorgani. La cura del programma generale di questa manifestazione è stata affidata a Chiara Valerio, e questa secondo me è una gran bella notizia, perché la Valerio è una donna che conosce bene l'editoria, è una brava scrittrice, ma è anche direttrice di una collana narrativa per Nottetempo, che è una piccola casa editrice. Quindi insomma è un segno questo che diciamo lei ha voluto in qualche modo tendere la mano agli editori medio-piccoli che si erano schierati in favore di Torino, criticando invece la nascita di questa nuova manifestazione. Insomma, tutti i nostri auguri in bocca al lupo vanno a Chiara Valerio e a tutti gli altri che dovranno organizzare questa manifestazione a Milano, come per esempio Pier Domenico Baccalario, che è un famoso scrittore per bambini e ragazzi, che si occuperà del programma appunto fra i 0 e i 18 anni. E poi ci sarà naturalmente anche un programma professionale per gli addetti ai lavori, che sarà a cura di Giovanni Pereson, che è responsabile dell'ufficio studi dell'AIE. Che cosa può offrire Milano più di Torino? Sentiamo come ha risposto Federico Motta, presidente dell'Associazione Editori, al microfono di Francesca Conti. Guardi, il tema è difficile da rappresentare in una risposta. Saranno le cose che lo dimostreranno. Le differenze molte volte si fanno nei dettagli. E quindi che cosa noi saremo capaci di fare in funzione di quello che ha rappresentato la presidente della Fabbrica del Libro Gorgani, noi pensiamo, più di tutto comunque inclusiva e con tutte le parti di editoria che compongono il nostro settore, quindi certamente la narrativa saggistica, ma l'universitario, il professionale, una parte dedicata ai ragazzi, anche i comici, cioè un mondo che è un grande mondo e che vuole essere rappresentato, e dall'altra parte coinvolgere tutti gli interlocutori di questi mondi. Quindi creare mondi di interesse, mondi di attrazione, mondi di partecipazione. Alcune caratteristiche di questa manifestazione milanese: sarà aperta dalle 10 alle 19, mentre gli eventi serali si svolgeranno in città, come una sorta, diciamo, di fuorisalone. Ci saranno editori grandi, ma anche medio piccoli, con i loro stand, dove naturalmente potranno vendere libri, ma soprattutto ci saranno incontri con scrittori italiani e stranieri. L'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno, sottolinea che non c'è una contrapposizione fra comune e governo. Non c'è questo problema, non c'è non sintonia tra comune e governo. Ovviamente in questa manifestazione, che è una manifestazione che non gode di finanziamento pubblico e quindi non gode di un finanziamento del Ministero, il Ministro ha ritenuto di non essere presente a questo evento di presentazione, ma sicuramente, naturalmente, credo che parteciperà poi come invitato nel momento in cui si svolgerà Tempo dei Libri. Il fuorisalone avrà come modello quello che noi realizziamo per MIAF, quindi un grande coinvolgimento di tutte le istituzioni cittadine, soprattutto evidentemente negli orari serali, con appuntamenti, manifestazioni dedicate al libro, alla lettura, agli scrittori che saranno ospiti di Tempo dei Libri e alla diffusione della passione per la lettura, per il libro, che contraddistingue fortemente la nostra città e che troverà in quei giorni un momento di particolare rappresentanza. Qui abbiamo parlato di Tempo di Libri, appunto questa nuova fiera del libro che nascerà a Milano nel 2017. Allora, per una sorta di par condicio, permettetemi, in questo braccio di ferro fra Milano e Torino, voglio anche segnalare che questo è il fine settimana in cui a Torino si svolge la 10ª edizione di Portici di Carta. Da ieri e fino a domenica una serie di librerie espongono sui loro banchi libri di ogni tipo. C'è anche naturalmente l'occasione per assistere ad incontri con gli scrittori. In particolar modo ne segnalo due previsti per domenica 9. Alle 16 l'incontro con lo scrittore David Nichols, l'autore del bestseller Un giorno, da cui fu tratto tra l'altro un famoso film, e poi aveva scritto anche il seguito Noi. E sempre domani alle 18 Stefano Benni, che presenta il suo libro proprio appena uscito, un libro illustrato pubblicato da Lizard. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su podcast su radio24.it. Se volete essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.